Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Faceva anche un po' freddo e mi scappava la pipì. E dopo tantissimo tempo, che forse però sarà stato un quarto d'ora, che non sembra, ma è lungo da passare guardando il muro un quarto d'ora. Ecco, dopo un quarto d'ora mi sono sentito sconfitto. Ero umiliato. Mi alzai e andai a suonare il campanello. Mia madre aprì la porta e io rientrai come se nulla fosse, dicendo: vabbè, va, questa volta resto. Sono Alessandro Frau, ho 24 anni, sono nato a Roma e studio ingegneria energetica. È lunedì 17 ottobre, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24 e questa mattina, mentre stavo facendo colazione al bar vicino a casa, ho assistito a questa scena, non ho assistito, in realtà ho proprio origliato a un dialogo tra due ragazze che erano sedute a un tavolino vicino al mio. Parlavano di una terza ragazza che credo fosse un'amica e del fatto che questa ragazza aveva una relazione che non funzionava molto bene. E una delle due continuava a dire: no, se ne deve andare perché sta male, perché lui la fa soffrire, eccetera. Insomma, una era più per vabbè vediamo, l'altra era più per no, se ne deve andare. Quella che però sosteneva che la sua amica se ne dovesse andare continuava a ripetere: sì, sai cosa, però lo dice da anni che se ne va e poi non se ne va mai. Il fatto è che progettare la fuga, ha detto proprio così, progettare la fuga è più facile che fuggire. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Questa mattina questo dialogo tra due ragazze mi ha fatto proprio riflettere sulla puntata di oggi, che è una puntata che riguarda una storia simile, non proprio, ma simile a questa. Alessandro mi ha raccontato in una pagina, che è quello che vi chiedo di fare continuamente, di raccontare un piccolo episodio della vostra vita in una pagina e spedirla, voi siete qui, @radio24.it. Mi ha raccontato di quando da bambino continuava a dire a sua madre che se ne voleva andare. Ah, io me ne vado, basta, questa volta me ne vado. Era una roba da bambino, ovviamente, ma è una cosa che probabilmente si porta ancora dietro. Non è mai fuggito perché, come diceva la ragazza stamattina, progettare la fuga è più facile che fuggire. Io non lo so se state progettando una fuga, magari in questo momento preciso della vostra vita, alle 16:10 minuti di un lunedì 17 ottobre del 2011. Non lo so se l'avete progettata da tempo, se siete lì, se siete indecisi se fuggire o no. Se però lo state facendo, se avete in mente di scappare e non ci riuscite, 349-238-6666, questa è la puntata per voi. Cristina mi scrive: 2 anni fa avevo preparato tutto per andare in Friuli, la casa la stavo sistemando e svuotando, avevo chiuso tutte le bollette e tutta quella roba lì. Mi sono bloccata 2 giorni prima di partire, non dormivo da 2 notti, stavo male e quindi ho abbandonato il progetto. Secondo me perché lo stavo facendo per paura di affrontare certe situazioni e mi sono resa conto che non sarebbero cambiate con la lontananza. Non era paura di quello che avrei trovato, ma di più per le persone che avrei lasciato. Qualsiasi sia la paura che non vi fa scappare, 349-238-6666. Francesco: paura di lasciare un lavoro a tempo indeterminato. Sono un operaio turnista in una fabbrica di gomma che negli ultimi anni ha regalato inadempienze contrattuali da parte della proprietà, cose come mobilità e praticamente ogni anno cassa integrazione. Ricomincio nuovamente il 1° di novembre, mi scrive. Paura di lasciare per non sapere dove si va a finire. Paura di lasciare per non poter proteggere più i colleghi. Vi ripeto qual è il numero, ormai lo sapete, ma è 349-238-6666. Se vi è mai capitato di essere proprio a quel bivio lì, in cui avete detto basta, prendo questa strada e me ne vado, e poi non l'avete fatto, ci sarà un motivo, ci sarà stata una paura. Se invece è ancora meglio, proprio in questo momento preciso, in questo pomeriggio, in questa settimana, avete la sensazione che sarebbe il caso che ve ne andaste, ma per qualche modo non riuscite a farlo, bene, ascoltate questa puntata oppure mandate un sms, 349-238-6666. Elisa: io sono scappata da casa senza pianificare nulla, poi quello che ho trovato, che non so se fosse una persona o le cose che ha trovato, volevano farmi scappare di nuovo, ma lì avevo la paura di quello che avrei trovato al punto di partenza. Ah, cioè, ok, era un circolo, giusto? Cioè, è scappata Elisa, poi voleva scappare dalla roba dove era finita, però aveva paura di tornare al punto di partenza. Vabbè, insomma, qualche paura in una cosa o nell'altra c'è sempre. Prima di partire, non voglio scappare dalle mie responsabilità, non lo voglio fare. E quindi, visto che qualche tempo fa evidentemente mi è scappato, anche lì, un po' di probabilmente facile e stupida ironia su una categoria che io in realtà adoro, che sono i geometri. Mi ho ricevuto questa mail che è molto lunga, ve ne leggo solo qualche pezzo, che è di Marco, che mi dice: ciao Caccia, sono quello che l'altro giorno ti ha scritto il messaggio sulle villette costruite dai geometri. Ho sentito anche la risatina di sottofondo e onestamente non la capisco. Non ho idea di cosa i geometri abbiano fatto nelle tue parti. Noi geometri siamo uguali a tutte le altre categorie che lavorano nell'edilizia. È chiaro che ingegneri e architetti sono laureati, e qui subito un po' di lotta di categoria. Ma c'è un pezzo più divertente, dice: io lavoro in ufficio da solo e mi occupo di edilizia residenziale. Un giorno è entrata in ufficio una signora e mi ha detto: mio figlio ha appena comprato casa, la vuole sistemare, ma gli deve far spendere poco, perché i soldi che aveva li ha spesi nell'acquisto, nell'immobiliare, nel notaio e nell'arredatore. Morale: se vuoi lavorare, lavora in perdita. Noi qui a Bergamo diciamo: il geometra è uno di famiglia. Saluti, buon lavoro, geometra Bertocchi Marco. Marco, ti ringrazio, faccio ammenda se avessi dovuto per caso far trasparire una qualche urina nei confronti dei geometri. Guarda, mio cugino Corrado è geometra e più di così non posso dire, cioè ti direi che sono io geometra, ma non è vero, per cui viva. 349-238-6666, questa è la paura di scappare, questa è la storia di Alessandro. Io un giorno me ne vado. È sempre stata la mia frase preferita da rivolgere a mia madre. Sempre. Anche quando ero piccolissimo. Ho cominciato a 3 anni, ovviamente non me lo ricordo. Ma ci furono 2 avvenimenti che misero a dura prova questo mio intento. Il primo è questo: avevo 10 anni. La mia iperattività era causa di forte tormento per mia madre. Correvo in continuazione per casa, facendo cadere oggetti e lasciando tracce sul pavimento appena lucidato. Dovevo muovermi, perché ero nervoso, volevo fare un po' come gli sportivi in televisione. E quindi lanciavo palline, mi tuffavo dal divano, parlavo ad alta voce, facendomi da solo la telecronaca di quello che stavo facendo. Dopo parecchi richiami all'ordine da parte sua, un giorno stufo le risposi: basta, non ce la faccio più io a vivere in questa casa, ho deciso, me ne vado. E così dicendo uscii di casa. Non fu difficile da fare, eh? Basta prendere la porta e uscire. Quello che mi ha fregato però è stata l'indifferenza di mia madre. Io ero sul pianerottolo e lei, con estrema noncuranza e un bel sorriso, mi ha salutato. Poi l'ha chiusa quella porta. Io, non sapendo che fare, mi sedetti sulle scale aspettando il richiamo e le scuse da parte di mia madre. Lanciavo sguardi alla porta ancora chiusa e i minuti passavano. Faceva anche un po' freddo, mi scappava la pipì. E dopo tantissimo tempo, che forse sarà stato solo un quarto d'ora, che non sembra mai lungo da passare, un quarto d'ora guardando il muro, mi sono sentito sconfitto. Ero umiliato. Mi alzai e andai a suonare il campanello. Mia madre aprì la porta e io rientrai come nulla fosse, dicendo: vabbè, va, stavolta resto. Col fatto che mia madre lavora molto spesso con i bambini, perché è una logopedista, aveva praticamente il dono di smontarmi qualsiasi mio capriccio in pochissime, quindi mi riusciva a spegnere sempre. Passò qualche mese e ci fu il secondo fatto. Mio fratello ormai aveva compiuto 1 anno e suo malgrado era diventato la mia valvola di sfogo. Gli rompevo le palle sempre, lo svegliavo mentre dormiva, gli toglievo il ciuccio mentre stava seduto a guardarsi in giro, lo schizzavo d'acqua mentre eravamo in bagno. Probabilmente lo facevo per attirare l'attenzione di mia madre, che si era concentrata tutta su di lui da quando era nato. E io avevo un po' smesso di essere il principe della casa. Come non è, lo torturavo continuamente. Non avrei voluto avere un fratello come me, mai. Come conseguenza di tutto ciò, ovviamente ricevevo le sgridate di mia madre. Non mi picchiava, ovviamente, ma mi riprendeva. E poi mi urlava dietro qualsiasi cosa, e nel peggiore dei casi mi metteva in punizione. Così, praticamente, entrammo in un circolo vizioso. Sevizia, sgrida. Sevizia, sonoro a lezione da parte di mia madre. Forse per il fatto che mio fratello era piuttosto piccolino quando lo maltrattavo, e adesso non si ricorda praticamente nulla, quindi non mi ha mai rinfacciato nulla. Però mia madre, diciamo, parla molto di me e soprattutto dei maltrattamenti che faceva mio fratello. Come una storia che quando stavo perdendo i denti, a causa di un morsico veramente potente su mio fratello, persi un dente. La stessa notte, come tutte le notti, mia madre mi fece il bagno e, dato che io ero ancora arrabbiato per i ceffoni precedentemente ricevuti, le dissi: basta, questa volta me ne vado davvero, non ne posso più. Mia madre non batte ciglio. Finito il bagno mi asciugò e, invece di vestirmi con il pigiama, mi portò dei vestiti pesanti e un giubbotto. Io ormai mi ero completamente dimenticato della minaccia appena detta, quindi le chiesi: scusa, perché mi porti i vestiti e non il pigiama come sempre? E lei mi rispose: perché fuori fa freddo. Forse sarebbe meglio che tu uscissi con qualcosa di più pesante. Terrore nei miei occhi. Ma io scherzavo, dissi. Ecco, da quel giorno, quelle 6 parole, io un giorno me ne vado, non sono mai più state dette. Io sono sempre stato uno di quei figli che cantano le lodi dei genitori e che ringraziano di quanto siano stati fortunati a vivere in quella casa e ad essere nati lì. Insomma, sono sempre stato un po' ruffiano, fin da piccolo. Però c'è qualcosa che mi accomuna alla storia di Alessandro. Ed è quel vago senso di porsi degli obiettivi in testa e sapere comunque in fondo, dentro di sé, che non si raggiungeranno. O per mancanza di volontà, o per mancanza di capacità. Ma quello che più mi dà fastidio è quando decido, ad esempio, che alla fine dell'estate mi rimetto in forma, che finito il programma inizio a scrivere un romanzo, che al prossimo Natale dirò ai miei quelle due cose che dovevo dire molto tempo prima e mi toglierò qualche sassolino dalle scarpe, che da domani basta lavarsi i denti senza dentifricio e poi lamentarsi se mi vengono le carie, che da lunedì mi sveglio alle 7:30 e inizio a lavorare presto perché lavoro meglio, oppure che quest'inverno devo dimezzare le spese in cene o in cinema perché i soldi non sono infiniti. Che a Capodanno, ad esempio, voglio chiamare tutti i miei amici e fare gli auguri. Che lunedì cerco un corso per imparare a cucirmi da solo le calze. Ecco, queste sono tutte cose che davvero io voglio di fare. E quando le penso, credo veramente che siano delle buone idee, che siano delle cose utili. Eppure c'è una parte dentro di me che mi avverte che invece no, non ci riuscirò. Per qualche motivo che sarà sempre colpa di qualcun altro, non farò quello che mi ero ripromesso di fare. E credo anche di aver capito perché faccio così. È molto semplice, perché ho paura di cambiare. Cioè, voglio dire, crescere è importante, tutti sanno che non si cresce se non si cambia almeno un po', giusto? Ogni giorno, anche nelle piccole cose. Il fatto è che sono un po' affezionato a come sono, che sicuramente sarà sbagliato, sarà sciocco e tutto quello che vogliamo, però quantomeno so come sono e non mi posso sorprendere. Non posso fare cose troppo strane e posso sempre fidarmi di me. Quindi la domanda che mi faccio è se invece cambiando non mi riconoscessi più. E se fare quel corso di cucina mi trasformasse in qualcuno che non voglio essere. Oppure se alzarsi alle 7 diventasse una droga, ma mi impedisse poi di rimanere sveglio fino all'1 tutte le sere. Il rischio è abbastanza grosso, anche se non sembra. E non credo di essere l'unico con questo genere di dubbi. E quando ho paura di essere strano, io ripenso alla storia di Enrico e un po' mi placo. Enrico è stato mio compagno di università. Ed è sempre stato strabico, ma non tipo Che Guevara o Uma Thurman, che con quel leggero strabismo sono diventati dei sex symbol. No, Enrico era veramente strabico, cioè era messo proprio peggio. Era uno strabismo divergente, che lo rendeva più che altro simile a Marty Feldman. Non aveva problemi di vista, ma in effetti dal punto di vista estetico era un problema e con le donne quel difetto non l'aiutava molto. E quindi un giorno si era deciso di farsi operare. Non sarebbe stato un intervento grave, mi diceva. E io pensavo fosse una buona idea, in effetti, no? Se si può stare meglio con se stessi, perché non farlo? D'altra parte mica si stava impiantando una quinta di seno, no? E poi anche se fosse. Insomma, faccio in bocca al lupo a Enrico prima dell'operazione e per un paio di giorni poi non lo sento. Un giorno lo vedo arrivare in università. Bello, come se niente fosse, ma identico a prima. Quindi gli chiedo dell'operazione. E lui mi dice che alla fine non se l'era sentita. Mi ha detto se poi quello che vedevo allo specchio mi fosse sembrato uno sconosciuto. E quindi ho capito che lui si era un po' affezionato alla sua faccia, che aveva dei difetti, è vero, ma era la sua. Ecco, io credo che Enrico abbia ragione, ma credo che anche lui, come me, sia un po' un cagasotto. E in quella categoria mi sa che siamo in tanti. Cristiano scrive: ho lasciato nei giorni scorsi la mia amata radio. L'ho fatto, volevo un cambiamento. Ora mi sento in lutto. Ma l'ho lasciata nel senso che ha cambiato radio, cioè è andata a lavorare da un'altra parte o semplicemente ha cambiato l'ascolto della radio? Perché non sarebbe carino nei nostri confronti, no? Dire che si sente il lutto perché non ascolta più, poi chissà cosa avrei ascoltato. A me invece ha fatto paura vedere quanto sarebbe stato facile fuggire, Lorenzo. E poi ancora, Marco da Rimini, sono in fuga da sempre. Ex commercialista, ex velista, ex idraulico, ora direttore d'azienda. Beh, diciamo che passi facilmente, no? Dall'idraulica alla vela all'azienda. Però andiamo direttamente da Alessandro, perché Alessandro ha un conto in sospeso con la fuga e vorrei capire dove si trova adesso. Pronto Alessandro? Eccomi, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Sei in mezzo a una strada, Alessandro? Sì, praticamente quasi sì. Sono a Colle Oppio. Sei a Colle Oppio, benissimo. Quindi siamo tranquilli. Cosa ci fai a Colle Oppio alle 4:30? No. Prendevo il sole, invece di studiare. Ma nel senso che tu stai studiando in questo momento? Io, beh sì, però ho finito le lezioni per palo, sono venuto qua a rilassarmi un po'. Quindi un uomo in mezzo alla strada in senso lato, mi auguro, e non in senso assoluto. No, è un parchetto in senso lato. Senti, Alessandro, tu hai 24 anni, giusto dicevi? Sì, giustissimo. E studi ingegneria, una roba particolare però. È energetica. Ah, non è così. Non siamo né carne né pesce, mezzi meccanici, mezzi elettrici, un po' così. Sei di Roma, giusto? Sì, però sono origini sarde. Ok, senti, ma quindi tu alla fine te ne sei andato da casa, nel senso che vivi ancora, dove vivi adesso? No, vivo ancora con i miei. Vivi ancora dai tuoi? Cioè è da tre anni, è da tre anni che la menica te ne devi andare e sono passati 21, sei ancora lì. No, dico ma non faccio, però vabbè, quest'anno penso che sia, come mi laureo definitivamente, ho proprio intenzione di andarmene. Cioè, comunque a prescindere, anche se non trovi un lavoro? Sì. No, vabbè, magari qualche cosa la troverò. Certo, non quello che vorrò fare, però intanto per iniziare, per andare, per avere una vita più autonoma. Ma dimmi cosa fa un ingegnere energetico? Cioè, cosa puoi fare poi? Sinceramente non l'ho ancora capito neanche io. Ma come non l'hai capito? Non lo so, in teoria è gestione degli impianti di produzione di energia elettrica. Beh, questa però è una roba che avrei voluto dire anch'io che non l'ho studiata. Mi aspetto qualcosa di più, Alessandro. Cioè, tipo lavorare in una piattaforma petrolifera in mezzo all'oceano. No, più che altro penso e spero in una come la progettazione proprio in sé per sé, la costruzione di una centrale elettrica e il suo avviamento. Però non sei convinto nemmeno tu. No. Senti, dimmi com'è stato fratello. È cresciuto sano oppure le tue torture l'hanno reso una persona peggiore? No, dico che penso che è cresciuto abbastanza sano e anche molto più di me. Infatti ora non penso che sia un po' impossibile maltrattarlo come prima, perché penso che Massimo mi sa che le prendo questa volta. Senti, questo desiderio di fuga continua ad esserci solo per la famiglia o riguardo a qualcos'altro, riguardo al lavoro, allo studio, alla fidanzata, se ce l'hai? No. Questo pensiero ce l'ho sempre, però penso che anche un po' mio padre adesso spinge un po' per farmi andare fuori di casa, perché lo vedo anche un po' in sofferenza. No, è che tuo padre vuole proprio mandarti via, giustamente, anche perché a 24 chiudere i rubinetti definitivamente. Alessandro, ti ringrazio moltissimo, ti faccio in bocca al lupo e... Grazie mille. Ma c'è il sole ancora? C'è ancora il sole, sì. Beati voi. Beh, pure qua c'è il sole, infatti. Bene. C'è la giornata corta. Grazie Alessandro, buona giornata. Grazie mille, anche a te. Ciao. Grazie. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Alessandro è su una spiaggia ed è anche al tramonto, perché c'è poca luce e si vede effettivamente poco. C'è il mare dietro e lui è in compagnia di qualcuno che però è tagliato, si vede giusto un braccio. È a torso nudo e si mette a mo' di barba qualcosa che credo siano delle alghe. Andate a vedere la foto, è sul sito radio24.it, alla pagina Voi siete qui. Vi ricordo anche che oltre alla foto c'è proprio una roba che abbiamo concepito, ci abbiamo messo un po' di giorni, un po' di tempo a concepirla, che è una mappa, è una mappa dell'Italia in cui ci sono dislocate ogni giorno le storie che raccontiamo, e quindi alla fine, già adesso cominciano ad accumularsi, e alla fine ci sarà una mappa ideale di questo paese che in qualche modo racconta un pochettino anche chi siamo, dove siamo e basta. Chi siamo e dove siamo? 349-238-6666. Avere paura di fuggire o avere paura di restare? A 17 anni ho detto vado via e metto su famiglia. Ho 30 anni e per essere certo di non avere più rapporti con mia mamma ci ho messo in mezzo anche 1200 chilometri. Orazio da Firenze. Wow. Io vado via ogni giorno, scrive Bea. Due baci ai figli sulla porta della scuola, un abbraccio al marito sulla porta di casa e io ogni giorno vado via. Ho con me la carta di credito, i documenti, una borsa con un cambio e la voglia di cominciare ogni giorno una nuova esistenza, in uno qualsiasi dei panorami che il mio lavoro ogni giorno mi offre. Un'altra vita altrove, ma per quei baci e quell'abbraccio ogni sera ritorno. Ho 40 anni, moglie e bambini. Ho perso il treno, Luca. Ma forse l'hai preso il treno invece, Luca? Non lo so. Martedì 25 ottobre, biglietto di sola andata per Parigi. Per me e la mia ragazza. Dopo tante paure, ricominciamo da tre. Come diceva Troisi. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. E mi è arrivato anche un mini racconto di Olivia che non è chiarissimo, però racconta del fatto che ognuno di noi ha dei momenti in cui si vede meglio di altri, che probabilmente la fuga è il modo più semplice. Eccomi lì, davanti a lui, incontrato per caso. Ciao, ciao, sono imbarazzata perché mi piace da sempre. E allora attacco a parlare e non riesco a smettere. Racconto della perdita in bagno, di mia madre che continua a chiamare. Rido e prendo a parlare delle bollette care, del Natale che non è così lontano in fondo, no? E rido. Racconto che sono sempre di corsa, eppure da lì non riesco a schiodarmi. E cercando di rimediare peggioro tutto. E vattene, cretina, scappa. Niente. Imperterrita continua la mia rantolante corsa, rimanendo immobile. Ci pensa lui a sparire, mentre chiudo gli occhi in preda a una risata isterica. O mi devo lanciare io in un elenco di saluti, aprendo mille parentesi, senza chiuderne nemmeno una, cercando di salvare l'ultimo granello di dignità che mi trattiene dal chinarmi in avanti, sperando che mi si apra la scollatura, che magari distrae. Davanti all'immobilità, Olivia rimane solo una cosa da fare. Scappare. 349-238-6666. Mentre rileggevo questa puntata, mi è venuto in mente un libro che è un libro minuscolo in realtà, sono neanche un centinaio di pagine, di qualche anno fa, per l'esattezza, lo dico anche subito, è del 1998. L'autore si chiama Hanif Kureishi, o Kureishi, è quello di My Beautiful Laundrette o Il Buddha delle periferie, forse ve lo ricordate per quello. In realtà da questo libro è stato tratto anche un film che si chiama Intimacy, che non è di Ken Loach, no, è di Chéreau, è di Patrice Chéreau. Non lo ricordo esattamente come un gran film, forse mi sbaglio, però non mi ricordo, a parte per una scena un po' hard, non me lo ricordo come un gran film. Non so, se, direi che non è il caso. Non lo so, se volete andate a vedervelo, andatevelo a vedere. Però il libro invece è molto carino, ripeto, è un libercolo di 100 pagine. E che racconta di tutta una notte, dell'ultima notte che il protagonista, che è anche la voce narrante di questa storia, passa a casa prima di abbandonare la moglie e i figli. In questa notte lui ovviamente ripercorre tutte le tappe della sua vita, della sua storia d'amore, del matrimonio, dei figli, e ripassa in rassegna tutto il suo passato. È un racconto in parte anche doloroso, e in parte no. Si svolge nell'arco di una notte e comincia esattamente così. È la notte più triste, perché sto per andare via e non tornerò indietro. Domani mattina, quando la donna con cui ho vissuto per 6 anni sarà andata al lavoro in bicicletta e i nostri figli saranno stati accompagnati al parco a giocare con la palla, infilerò alcune cose in una valigia, scivolerò fuori da questa casa, sperando che nessuno mi veda, e prenderò la metropolitana fino all'appartamento di Victor. Lì, per un periodo di tempo indefinito, dormirò sul pavimento, nella minuscola stanza che lui gentilmente mi ha messo a disposizione, accanto alla cucina. Ogni mattina solleverò il sottile materasso a una piazza e lo rimetterò sullo stenditoio. Riporrò il piumino ammuffito in una scatola, sistemerò i cuscini sul divano. Non ritornerò a questa vita. Non posso. Forse dovrei lasciare un biglietto per comunicare questa decisione. Cara Susan, non ritornerò. O forse no, forse è meglio che telefoni domani pomeriggio. O potrei farmi vivo nel fine settimana. I dettagli non li ho ancora decisi. Quasi sicuramente non le dirò le mie intenzioni stasera o stanotte. Rimanderò. Perché? Perché le parole sono azioni e fanno accadere le cose. Una volta che sono uscite dalla bocca, non puoi più farle rientrare. Qualcosa di irrevocabile sarà accaduto e io sono impaurito e insicuro. Di fatto in questo momento sto tremando. Ho tremato per tutto il pomeriggio, per tutto il giorno. Smashing the possible, trampling on innocence. Hard and inflexible, stiff lines of reason. Bound, true with self-defense and shuddering poison. Visto che Bonini non fa mai le cose a caso, questo è un pezzo che è tratto proprio dalla colonna sonora del film da cui che è tratto dal libro Nell'intimità di Qureshi. Il film si chiama Intimacy, se vi capita. Non è facilissimo trovarlo, però vabbè, in DVD o in altro modo, insomma, lo trovate sicuramente. 349-238-6666. Quando la letteratura ha un senso, mi scrive non so chi perché non si firma. Nell'intimità, il libro era troppo bello. Ho passato una notte leggendolo e pensando. Poi me ne sono andato. E poi qualcuno mi scrive: ho una fabbrica di treni. Li penso, li disegno, li costruisco, ma non partono mai. E quindi resto fermo alla stazione, aspettando che passi. Poi ogni tanto arrivano dei messaggi che io non so mai se leggere per intero o appunto leggere solo in parte o non leggere proprio. In questo caso però ho la sensazione che ci siano dei messaggi che sono talmente privati che le persone che li scrivono, nei casi come questo, in realtà abbiano solo semplicemente voglia di dirli a qualcuno, e quindi mi prendo la responsabilità di non leggerli, perché evidentemente quando si parla di un argomento come questo capita di andare a colpire qualcuno che proprio in questo momento qua non sa se andarsene, se scappare o se rimanere. E quindi la persona che ha scritto l'ultimo messaggio, e lei sa di chi sto parlando, faccio semplicemente i migliori in bocca al lupo. Luca mi scrive: paura di lasciare perché ho già lasciato una volta, sono andato a Roma per 7 anni per scappare dalle responsabilità e appena partito mi sono reso conto di aver sbagliato. Conclusione: 2 anni di crisi di panico fino a quando non sono tornato alle radici della mia famiglia d'origine, perché da se stessi non si scappa. C'è un indirizzo email che è voisietequi@radio24.it e c'è un profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui. Per scaricare il programma in podcast, se volete, lo fate dal sito oppure vi abbonate su iTunes gratuitamente alla pagina di Voi Siete Qui. E una piccola nota invece che riguarda proprio in chiusura, che riguarda i racconti che arrivano in continuazione, ne siamo stupiti e felici. Questo però non è un concorso letterario, quindi se avete voglia di pigliare un piccolo pezzo della vostra vita, di rielaborarlo anche, però che sia vero, e di buttarlo su una pagina, noi lo leggeremo e lo manderemo in onda, quasi sicuramente. Se però ci mandate 10-15 racconti come fareste a una casa editrice, non sappiamo cosa farne perché sono troppi, ad esempio, e perché lì dietro c'è una velleità che è un'altra rispetto a quella semplicemente di raccontare un piccolo pezzo di vita e di far parte di questo programma. Tutto qua. Voi siete qui, @radio24.it. Io ringrazio anche oggi Pietro Lacorte, ringrazio anche oggi, è da una vita che non c'eri Pietro, ringrazio Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Alessandro e parlava di paura di scappare. Quella di domani è la storia di Francesco e racconta di incontri che non tornano più. Cristina era lì, una certezza, tutti i giorni. Io non sapevo ancora cosa fosse l'amore e neanche immaginavo quanto, un anno dopo, avrei avvertito quel piccolo grande vuoto nel caos della scuola media, senza tempo pieno e senza Cristina. Lei venne iscritta alla scuola media vicino a casa, io in un'altra. La nostra è una città piccola e se il destino vuole, può capitare di non incontrarsi per anni, a volte anche per sempre.